palla ovale. Un pomeriggio a tutti da Carlo Genta, anche da parte di Gigi Borghi in redazione, di Giacomo Spunta in regia. Saluto subito Giacomo Bagnasco. Ciao Giacomo. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. E vi do i risultati dell'ottava giornata del Super 10, che torna dopo la parentesi delle Coppe Europee al solito non fortunata, ma, ed è questo il grande argomento di giornata, sono in arrivo enormi novità per il rugby, per lo sport italiano, perché tra poco parleremo di ciò che ha deliberato ieri il Consiglio della Federrugby. Oggi intanto partite tiratissime, tutte quante. Questi risultati: Casinò di Venezia 19, Almaviva Capitolina 23, Viadana che vince sul campo del Petrarca Padova 21-18, Rovigo che pure vince in trasferta a Roma sul campo della Futura Park 27-23, domani c'è il derby di Parma, il posticipo dunque, e poi la partita più attesa, la riedizione della finale Scudetto, Calvisano che doveva provare ad uscire da una crisi profonda ospitando la Benetton Treviso, ebbene Calvisano ce la fa, di strettissima misura, 28-26, questi i risultati dunque dell'ottava giornata. Io saluto subito e ringrazio invece il grande protagonista del momento, cioè il presidente federale Giancarlo Dondi. Buon pomeriggio presidente. Buonasera. Senta, io per prima cosa voglio farle complimenti per aver avuto la forza e la lungimiranza di sostenere fino in fondo questa rivoluzione che ieri avete deliberato. È una cosa che bisognava adeguarsi al rugby d'alto livello. Noi giochiamo contro le nazionali più forti, giochiamo contro i club più forti, e chiaramente c'era da creare una certa divisione chiara per poter andare avanti tra quello che è il rugby dilettantistico e quello che è il rugby professionistico. Noi avevamo fatto un'altra proposta che forse era meno indolore e forse probabilmente ci voleva più tempo per arrivare al professionismo vero, visto che da parte dei club è stata bocciata. Naturalmente abbiamo ritenuto di andare per questa strada sperando che anche i club apprezzino quello che noi abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatto pensando all'interesse del rugby italiano. Avremo due super team che entreranno a far parte della Celtic League a partire dalla prossima stagione 2009 e 2010. Avremo quindi dei club Italia, avremo la possibilità di far crescere sul serio i nostri giocatori in un torneo di altissimo livello, e io credo che a stretto giro di posta anche per la nazionale sarà aria balsamica. Giacomo Bagnasco, una domanda per il presidente federale. Sì, direi Carlo che in parte mi hai un po' preceduto. Tu hai parlato con certezza di questi due super team. L'impressione, tutto sommato, è che sia più probabile arrivare alla soluzione delle due selezioni piuttosto che a quella dei quattro club. Però è un'impressione di cui chiedo conferma al presidente Dondi, basandola comunque sul fatto che la riduzione a 5 giocatori per squadra non eleggibili sicuramente non favorisce la soluzione dei club. Questo volevo chiedere a Dondi, e anche quali sono i tempi previsti per l'operazione. Allora presidente, tempi e composizione dei team. Io non ho sentito la domanda. No, gliela faccio. Scusa. No, gliela rifaccio. Lei la sento benissimo, Bagnasco, lo sento benissimo. Giacomo purtroppo è al telefono e dunque ci sono dei problemi, qualche problema di linea. Però gliela riepilogo io la domanda. Innanzitutto, i tempi in cui, tempi e modalità in cui il progetto si articolerà. C'è il limite dei 5 giocatori non eleggibili per la nazionale nella composizione di questi super team? C'è uno di questi, l'altro che è molto importante, collaborazione con i tecnici nostri federali, perché chiaramente crescere dobbiamo crescere assieme, e perciò dobbiamo tenere anche presente che la nostra cassaforte, che ci permette di fare fare molte cose per tutto il movimento, è la nostra nazionale. Perciò cresciamo pure con i club, ma non possiamo pensare di rimanere indietro stavolta con la nazionale. Io penso che sicuramente avremo la soddisfazione di far sì che i nostri migliori giocatori continuino a giocare nel nostro paese, questo qua è una grossa soddisfazione. Io penso che ne porteremo indietro altri che sono usciti, sì, tutto sì, qua tutto beneficio della nostra nazionale, in modo particolare che quando ultimamente qua è stata approvata la normativa 9 della liberazione dei giocatori, che sicuramente va a danneggiare enormemente tutte le federazioni che hanno giocatori che giocano nei campionati esteri. Cosa chiede lei adesso ai club italiani? I club italiani credo che la cosa più importante è chiederci prima di tutto di capirci, perché non abbiamo fatto una cosa così per farla, l'abbiamo studiata bene. Ne avevamo studiate due, una quella che abbiamo proposto e questa che nel caso non fosse stata la prima l'avremmo riproposta, chiaramente di capire che c'è la necessità di mettere un bel paletto che divida quello che è il rugby tradizionale e il rugby professionista. D'altronde questo qua è avvenuto in tutti i paesi del mondo, dopo il 95 quando si è dato l'apertura al rugby professionistico, e perciò noi non potevamo essere dentro le 10 federazioni al mondo, di avere una nazionale che incontra tutte le squadre più forti del mondo, avere dei club che praticamente si scontrano contro i club più forti del mondo, perché sappiamo benissimo che il campionato francese e inglese è quello rappresentante dei club più forti del mondo, chiaramente continuando a fare i dilettanti. Certo, certo. Le guerre contro i carri armati col fucile non si vincono. Bravissimo, bravissimo Presidente. E nel salutarla le rinnovo i complimenti per il coraggio dimostrato. Grazie davvero. Grazie molto, molto gentile, grazie di nuovo. Ringrazio Presidente federale Giancarlo Dondi, ci fermiamo per il traffico, poi commentiamo con Giacomo Bagnasco questa decisione obiettivamente epocale. Il presidente Dondi ha avuto la forza di imporre alla fine questa decisione che va verso il futuro, ma è un discorso che avevamo fatto mille volte. Perché scozzesi, irlandesi, gallesi, non potendosi permettere, tra virgolette, un campionato di alto livello, hanno aderito, hanno creato questa Celtic League, questa Lega Celtica. Noi invece continuavamo con il nostro, chiusi nel nostro orto, nel nostro piccolo campionato, e a spese di una nazionale che sta cominciando a mostrare la corda, e ne abbiamo avuto la prova anche negli ultimi test match. Palla ovale. Dunque, stavamo dicendo, con il presidente federale Dondi, rivoluzione è fatta. A questo punto nascono i due super team che andranno a giocare nella Celtic League. Come diceva il presidente Dondi, non si può continuare a confrontarsi con i migliori del mondo, con i carri armati, con il fucile di latta prodotto dal nostro campionato. Giacomo Bagnasco, ti chiedo un commento su queste parole di Dondi e su questa rivoluzione. Ma guarda Carlo, devo confessare che la mia linea era andata via proprio in un momento un po' particolare, cioè quello della risposta a proposito della partecipazione, perché che siano due super team o che siano quattro club cambia tantissimo, e finora questo non mi sembra che sia chiaro, quindi non so, ecco, se la cosa è stata chiarita in maniera netta, ma non credo, ecco, in questo momento. No, questa rimane la perplessità di fondo, però alla fine saranno due super team, almeno a sentire le parole del presidente Dondi, sotto gestione federale. Sì, sostanzialmente dovrebbe essere così. Oggi sulla Gazzetta dello Sport, ad esempio, si parlava della possibilità invece di un super team e di un'altra squadra con la partecipazione dei club. Insomma, è naturalmente tutto da vedere, perché due super team alla federazione costerebbero più di metà del budget complessivo, quindi sono cose complesse su cui ragionare. Sicuramente il passo è importante, sicuramente l'idea di trattenere in Italia i giocatori migliori, di provare a farne rientrare alcuni, anche se forse siamo un po' ottimisti sul numero di quelli che rientrerebbero. Io ho sentito citare da tutti Perugini, a me risulta che Perugini sia uno dei giocatori più pagati, forse non dico solo tra gli italiani, ma uno dei più pagati del campionato francese, sì. Quindi non sarà così semplice. Dopodiché l'intento è chiaro e nel tempo sicuramente darà i suoi frutti. L'importante è che la cosa attecchisca anche a livello di entusiasmo e di interesse, perché non ci possiamo nascondere due cose. Primo, una cosa è la nazionale, una cosa è uno o due super club, cioè una realtà nuova. L'altro, in ogni caso, se dovessero giocare i club, credo che almeno per nel breve medio periodo rimedierebbero delle sconfitte anche più pesanti di quelle che rimediano attualmente in Heineken Cup, dovendo schierare al massimo 5 stranieri. Se giocheranno le selezioni, la cosa naturalmente si farà più interessante, qualche straniero di vaglia a questo punto la federazione potrà cercare di prenderlo, perché sì, questo succede anche, non so, nel Munster naturalmente, che ha grandi giocatori che vengono da fuori come Olet, ma sicuramente diciamo le due selezioni potrebbero diventare più competitive nel breve periodo. C'è anche da dire che club come il Treviso, come il Calvisano sono intenzionati invece a far valere la seconda strada, cioè quella di giocare come società, di giocare con le loro forze e indubbiamente investendo cifre superiori a quelle investite finora. Quindi sicuramente la Celtic League si farà. I tempi potrebbero essere molto brevi per quanto riguarda la partecipazione di due squadre, poi il resto naturalmente è da vedere. C'è un campionato Super 10 che comunque dovrebbe rimanere e naturalmente anche lì, se partecipano quattro club alla Celtic League è un conto, se invece ci sono le due selezioni è un altro, diventerebbe a questo punto un campionato, se non dilettantistico, di un semiprofessionismo molto blando, molto più blando di quello attuale. Naturalmente c'è anche il discorso della Heineken e della Challenge Cup, probabilmente se si fanno due selezioni è chiaro che sono le stesse che parteciperanno alla Heineken Cup, sì, che è la Champions League, e magari le prime quattro del Super 10 faranno la Challenge. Insomma, è veramente una rivoluzione, una cosa le cui conseguenze però globalmente, soprattutto la cui strutturazione è un po' difficile da conoscere adesso. Basti pensare ad esempio al discorso delle sedi, dove giocheranno queste squadre, se vale la pena di adottare una sede fissa o se è meglio forse farle girare per l'Italia. Eh beh, certo, sarebbe una brutta idea. No, sarebbe l'idea vincente, portare queste selezioni. Immaginiamo che, e ritengo che sia la strada, anche sentendo Donny, la strada più plausibile, due super selezioni potranno essere itineranti, quindi portare comunque il seme del rugby dalle grandi città in piazze diverse da quelle abituali e storiche. Insomma, anche sarebbe un'altra piccola rivoluzione all'interno di una rivoluzione gigantesca, ripeto, non solo per il rugby, ma da leggersi, insomma, rivoluzione per tutto lo sport italiano, certo, perché qualcosa, certo, di questo tipo non si era mai visto, insomma. Non si era mai vista, sicuramente è vero ed è giusto dire che se lo hanno fatto Scozia, Galles e Irlanda non si vedeva perché non lo potessimo e non lo dovessimo fare anche noi. Però vorrei dire anche un'altra cosa, che in Scozia, in Galles e Irlanda hanno tradizioni che noi non ci sogniamo neanche, ma l'unica tradizione vera che avevamo noi e che loro non hanno mai avuto sul serio era il campionato. Lo so, Giacomo, però era uno scoglio da superare. No, questo è vero, il nostro campionato... No, però voglio dire, sicuramente loro non hanno fatto nessuna fatica, ecco, a dire, a scegliere, o perlomeno è stata una scelta... meno traumatica di sicuro, però come diceva prima il presidente, insomma, bisognava superare anche questa resistenza emotiva per entrare in un rugby diverso, quale quello che il rugby professionistico è diventato. Bisogna accettare la superiorità schiacciante degli unici due campionati che contano, inglese e francese, e quindi adeguarci invece alle altre grandi realtà europee, grandi realtà continentali, Scozia, Galles e Irlanda per l'appunto. Sì, Giacomo, sì, abbiamo un ascoltatore che è Cesar da Roma, 800 24 00 24, numero verde, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Sister Brown, sono solo uno scozzese argentino, oramai ho i miei anni, ho giocato per tanti anni della mia gioventù in Argentina. Sì. Io già ho partecipato alla vostra trasmissione e sempre, io da tanti anni che sono contro la regola numero 8. Sì. Questa regola numero 8 permette a uno straniero che vive 36 mesi in un paese e gioca lì, rappresentarlo. Sì. Io credo che fra i 60 milioni di italiani nati in Italia, voi dovreste trovare che la nazionale sia fatta da gente nata in Italia. Ossia, perché questo, diciamo, lo sport ha un'etica che non passa per il mercato. Cosa che diciamo, il mercato deve rimanerne fuori. Io capisco che tanta gente si è fatto un sistema di vita su questa cosa. Però per esempio, perché non viene mai intervistato Josh Scholl quando stava a Rimo Wakarua? Perché sarebbe difficoltoso spiegarle a un bambino che quei ragazzi, con i quali non ho niente in contro, sono italiani. Sì. Allora, io credo che ogni volta che voi mettete un Ramiro Pezzo, una cosa del genere, state evitando che qualche italiano nato qua, perché nazionale vuol dire natio, sì, che sì, uno sì. sa dove mamma lo ha messo per terra nel momento che è nato. Sì, esatto. Questo è un grande tema, però io le rispondo che questa rivoluzione che è stata ieri disegnata dal Consiglio federale risponde anche a questa esigenza, perché leggo che nel giro di 5 anni le classi dal 90 al 93, classi intese come anni di nascita, dal 90 al 93 produrranno qualcosa come 7.000 giocatori seniores, perché i vivai si sono estesi e a questi ragazzi deve essere offerta una prospettiva diversa. Leggo su, ad esempio, sul Corriere dello Sport di oggi, deve essere offerta una prospettiva diversa da quella di ammuffire in panchina. Quindi io credo che questo progetto rivoluzionario risponda anche all'esigenza che lei sottolinea. Giacomo, mi sbaglio? Sì, sicuramente, diciamo che per dire la verità, 7.000 ragazzi cioè 7.000 ragazzi che escono dal settore giovanile e arrivano nel settore senior, in ogni caso sono una gran bella notizia. Sì. Indipendentemente dalle formule, certo. Sicuramente ci saranno alcuni fuori classe, anche statisticamente, alcuni giocatori veramente di alto livello. Ci sono due realtà che cercano di catalizzare tutti i migliori, di trovare il modo di farli giocare insieme, sicuramente forse potranno emergere con più facilità, questo sì. Quanto al nostro ascoltatore, io credo che in linea di principio non gli si possa certo dar torto, cioè poi chi dice che in un mondo globale è chiaro che anche la nazionalità ha un valore molto meno assoluto di prima. D'altronde io capisco che, e questa è un'esigenza di tutti, che bisognerebbe giocare con i propri giocatori creati dai propri vivai e fare bella figura senza ricorrere a giocatori sostanzialmente naturalizzati. Che poi l'ascoltatore sia un po' scozzese ma anche un po' argentino fa capire ancora di più il suo disappunto, perché l'Argentina non credo non abbia mai avuto un giocatore naturalizzato, in compenso ne ha dati tanti, sì, sì, sì, soprattutto all'Italia. A tutti gli altri. Grazie Giacomo. Grazie a voi. Alla prossima. E l'ultima cosa Dimmela. Che possiamo dire, Carlo, solo per fare ancora un accenno al campionato, è che con la vittoria di Padova e con la sconfitta del Benetton a Calvisano, il Viadana conclude l'anno al primo posto in classifica. Potrebbe essere al massimo raggiunto dall'Overmark Cariparma, sì, in caso di vittoria con bonus dei gialloblu domani nel derby. Tanto Calvisano respira. Calvisano si riprende, l'anno scorso di questi tempi aveva fatto partire la rimonta che l'aveva portato allo scudetto, chissà mai. Grazie Giacomo, alla prossima. Ciao. Palla ovale. Ecco che torniamo pronti ad aprire il capitolo sci, anche quello del pugilato, ma ho dei messaggi, ad esempio questo di Marco da Roma: ho paura che l'entrata nella Celtic League, sempre a proposito del rugby, del discorso che abbiamo fatto prima naturalmente, ho paura che l'entrata nella Celtic League sia solo per incrementare gli introiti televisivi, allora addio al rugby attuale. No Marco, non, gli introiti televisivi eventualmente saranno un riflesso, addio al rugby attuale era necessario perché non possiamo continuare a, insomma, a portare la nostra nazionale contro i più forti del mondo con i nostri giocatori che giocano tutti all'estero, i migliori, con un campionato che è impoverito e con una partecipazione alle coppe europee dei nostri club che è semplicemente deprimente, e questa situazione va avanti da anni. Si cerca di voltare pagina, come, e rispondo anche a Stefano da Brescia, con ogni probabilità ancora tutto deve essere scritto, messo nero su bianco e ufficializzato, ma la decisione è stata presa, con ogni probabilità due super team o Club Italia se volete su base regionale, una selezione del nord ed una del centro-sud sotto l'egida federale, quindi i giocatori di interesse nazionale, i più forti che sono in scadenza di contratto, che verranno contrattualizzati direttamente dalla federazione. Ecco, una sorta di piccole nazionali che andranno a giocare un torneo di altissimo livello come la Celtic League, di cui fanno parte selezioni delle province d'Irlanda, ricordiamo Connacht, Leinster, Munster e Ulster, quindi queste quattro selezioni, le gallesi, Cardiff Blues, Scarlets, i Newport Dragons e gli Ospreys, e quindi due super club scozzesi di Edimburgo e di Glasgow. Un torneo già esistente, che esiste dal 2002, un torneo con il quale insomma Scozia, Irlanda e Galles si garantiscono un continuo cambio generazionale, un continuo rinfoltimento delle loro e rafforzamento delle loro nazionali, con eccellenti risultati. È un passo determinante questo per il rugby italiano, ed è un passo che, secondo me, l'ho detto mille volte, andava fatto. Adesso voglio parlare di sci con Dario Puppo. Buongiorno Dario, anzi buonasera. Ciao. Ormai. Ciao. Ciao Carlo, saluto a tutti. Dunque, oggi abbiamo una discesa maschile in Val Gardena, molto attesa, che però insomma, è stata vinta da Valcofera e siamo andati male. Un Super G femminile invece a St. Moritz, in cui Nadia Fanchina ha piazzato una bella zampata. Sì, verissimo. Cominciamo dalla Val Gardena. Chiaramente per l'Italia è sempre un po' lo stesso discorso: quando si vince si crea l'attesa e quasi sempre questa attesa poi cade un po'. Se ti ricordi, due settimane fa mi avevi chiesto dove mettiamo la prossima bandierina. Io un po' per scaramanzia e un po' perché davvero pensavo che soprattutto in discesa d'Italia poteva fare bene oggi, ti avevo detto non alla Molina, dove era facile pensare magari alla Carbon che poteva vincere il primo gigante settimana scorsa, oppure in Val d'Isère nelle premondiali maschili, dove comunque è arrivato il secondo posto di Blardone. E pensavo oggi, invece è arrivato ieri il grande risultato nel Super G. Oggi era la gara dei volponi, nel senso di quelli che hanno tanta esperienza, e dei nordamericani, perché se è vero che ha vinto Valcofer, tra l'altro interrompendo un digiuno del Funder Team esattamente di un anno, perché aveva vinto un anno fa su questa stessa pista, e poi l'Austria non ha più vinto una gara di discesa, cosa piuttosto strana per un paese che ne ha vinte 160 di 390 complessive disputate in Coppa del Mondo nella storia. Però va detto che in una pista che, come Cuscia ha definito, conserva l'anima vera della discesa, dove devi andare dritto, devi cercare la linea più corta e più veloce, quindi il compromesso già di per sé è difficile e devi prendere dei rischi, perché comunque è una pista dove non c'erano le stesse ondulazioni degli anni passati. I nordamericani, che da questo punto di vista forse hanno qualcosa in più, prendono dei rischi in più, lo hanno dimostrato mettendone tanti, gli americani e i canadesi. Miller è arrivato secondo, il primo podio nella velocità. L'Italia è mancata, però questa è una pista che, come dimostrano le statistiche, insomma, se non vinciamo in Italia o a Bormio o sulla Saslong da 8 anni, vorrà dire qualcosa, anche se Ghedina ha vinto 4 volte, insomma. Sì, no, ma Dario, comunque tu facevi riferimento a al risultatone di ieri nel Super G, ma sì. i nostri guastatori vanno così, vanno un po' dove meno te li aspetti, bam, e poi rientrano nei ranghi per poi piazzare la zampata successiva quando sono meno attesi, mentre se c'è l'attesa un po' si sgonfiano. Invece Nadia Fanchini, che era attesa, si è confermata nel Super G. Verissimo, direi che è la gara della giornata, il Super G di St. Moritz, disputato su condizioni di neve non semplici, tra l'altro un Super G accorciato, un po' un'anomalia francamente, e questo dimostra ancora che ormai Nadia è pronta per tutte le gare. Direi che nel Super G ottenere questo risultato è molto importante. Adesso vediamo poi, sperando che la gara possa essere disputata domani, visto che si dà ancora del maltempo sull'arco alpino, sarà importante anche domani. Io penso che Nadia possa, come dire, creare le basi per avere una stagione da prime 5 nelle due specialità della velocità, però se mi consenti, siccome l'ho intervistata in settimana, vorrei fare anche una piccola parentesi sull'Aragut, perché sì, questa non è forte, questa diventerà fortissima. Cioè, io penso che si tratta di un fenomeno come Anya Persson potenziale, o come Janica Zakostrić, perché a 17 anni ha vinto con più di 6 decimi oggi sulla pista di casa. Lei un anno fa a St. Moritz aveva fatto la sua prima discesa, è caduta quasi sul traguardo, è arrivata terza, se no vinceva. È un fenomeno incredibile, in Svizzera già le hanno dato il premio come rivelazione giovane dello sport nazionale, non l'aveva mai preso neanche Zurbriggen, nessun sciatore in Svizzera, quindi il fatto che Nadia Franchini sia arrivata dietro a una 17enne non è preoccupante, anzi dimostra che oggi, insomma, dietro le due svizzere che sono andate sul podio c'è stata la migliore, insomma, sì, sì, al di là delle beniamine di casa, quindi io penso che sia un risultato di cui, insomma, essere molto contenti. Certo, è così. Passiamo dagli sci ai guantoni della boxe. Visto che ieri sera hai visto e commentato non l'ho commentata. L'hai commentato, però l'hai visti di sicuro da bordo ringa al Pallalido, la vittoria di Branco su Toppola, capo tecnico non ha ripresa, e quindi il titolo che arriva, mentre Vidoz ritiro alla decima, ma un match che non è andato bene contro Skelton. Non è andato benissimo nemmeno il match di Branco, se poi si vuole essere sinceri, nel senso che a mio modesto parere le prime due riprese, forse anche le prime tre, non erano per Gianluca Branco. I giudici non erano d'accordo, perché ho visto i cartellini poi alla fine, addirittura c'era un giudice che aveva 6 punti di vantaggio per Branco, che erano francamente troppi. Meglio che abbia conservato la cintura per un problema all'arcata sopraccigliare destra, che rischiava di trasformarsi in qualcosa di pericoloso, insomma, per Toppola era un gonfiore veramente esagerato, rischiava grosso. Hanno fatto bene a fermarlo Sturla, il medico ha fatto benissimo, ha grande esperienza, insomma, internazionale. Quindi lo verificheremo alla prossima occasione, Branco piccolo, nella prossima difesa. Per quanto riguarda Vidoz, io francamente sono molto dispiaciuto, non tanto deluso, perché sembrava un match alla sua portata, però soprattutto come è finito, con una sorta di resa no mas, sì, alla Duran, fa male soprattutto a lui, perché è una persona eccezionale, ha divertito molto il suo ingresso sul ring con il solito, insomma, siparietto dei suoi amici che imitano i Village People. È divertentissimo, un personaggio che ha carisma, che ha carattere, magari di provincia in qualche modo, perché è la sua dimensione. Però se dovessimo fare a meno di lui nel pugilato sarebbe una grave perdita. Io spero che possa tornare, ma sarà difficile dopo questa resa, dopo 9 riprese. Beh, lui ha dichiarato prima, no? Aveva detto prima che in caso di sconfitta avrebbe appeso i guantoni. Direi che quella è la strada giusta, anche perché veramente il segnale che ha dato quando, per tutta una ripresa, tra l'altro con l'avversario che è stato molto sportivo nel non voler accelerare troppo, cercare di metterlo ancora più in difficoltà, l'angolo piano piano si è reso conto che se diceva basta era perché proprio non ne aveva più, e io penso purtroppo che quello di ieri sera è stato il suo ultimo match. Un peccato che la riunione non abbia avuto lo stesso grande pubblico che c'è stato per Fragomeni. Sicuramente lo scenario si ripeterà invece in grande stile a febbraio, quando ci sarà la difesa del titolo di Fragomeni. Grazie Dario, alla prossima. Grazie a voi. Grazie a Dario Pupo. Chiudiamo questo segmento di trasmissione con un altro ascoltatore, Fabrizio della provincia di Viterbo. Dopo il traffico invece andremo un po' sul calcio. Fabrizio, buongiorno. Buonasera. Buonasera. Vorrei, se è possibile, parlare ancora di rugby. Ma certo che è possibile. La domanda che volevo fare è questa. Secondo, stamattina ho letto sulla Gazzetta dello Sport che la federazione non ha forse i fondi per mantenere le due squadre. Allora mi domando, come farà in un futuro prossimo a strappare Paris e Mauro Bergamasco a squadre ricche o un Castro Giovanni, dico, e a mantenerli? E poi un'altra domanda, un'altra anticotazione, a me Mallet non piace, non va giù. Grazie e buonasera. Grazie a lei, Fabrizio. Beh, Nick Mallet è questione di gusti, insomma, secondo me lavora con il materiale che ha a disposizione, poi ha provato a a fare qualche esperimento, a inventarsi qualcosa, alcune cose funzionano, altre meno, però il materiale umano è quello, ed è quello che, ed è su quello che bisogna lavorare. Bisogna cercare di dare al commissario tecnico, sia su Mallet o un Berbizier che aveva lasciato proprio per questi motivi, una maggior dote di talento, di giocatori disponibili, di giocatori soprattutto di alto livello. Quanto al resto, come si farà a trattare i contratti dei giocatori che lei ha citato? Io credo che non sia possibile, non sarà possibile, almeno per alcuni anni, richiamare i giocatori che lei ha citato, cioè quelli i top del nostro rugby, da Parisse a Perugini, come ricordava prima Giacomo Bagnasco, ai fratelli Bergamasco, perché sono comunque giocatori che guadagnano un sacco di soldi all'estero e non penso sia possibile pareggiare quelle offerte. Certo, sarà invece possibile trattenere in Italia quelli come ad esempio Marcato, come ad esempio Travagli, che possono avere offerte dall'estero, evitare nuovi espatri, nuove fughe, e poi sarà possibile magari richiamare altri giocatori che non sono ma appunto i più noti, Castro Giovanni, Parisse e Bergamasco, questi scordiamoceli, però magari richiamare un Canavosio, però magari richiamare Masi, perché no? Allora quello sarà possibile. In ogni caso sarà possibile far giocare insieme questi giocatori in prospettiva nazionale e in un torneo di altissimo livello, un torneo che secondo me potrà anche attirare il, non dico immediatamente il grande pubblico, ma un pubblico consistente che non siano quei 500, 600, 800 appassionati che vediamo intorno ai campi di rugby del nostro Super 10. Palla ovale. Questo primo anticipo di giornata che sentivate citato nella viabilità, giustamente, Lazio-Palermo, vi do anche qualche riflesso di formazione con la Lazio che manda Rocchi, con degli rossi che manda Rocchi in panchina, chissà quanto gradirà Tommaso Rocchi, comunque giocano Pandeve Zarate davanti e alle loro spalle Pasquale Foggia, nel Palermo a far coppia con Miccoli sarà Succi invece. C'è Siena Inter poi questa sera, c'è una Serie B con risultati che sono ancora parziali, ma ve li darò lo stesso, poi vi darò la conferma di questi risultati. Si sta giocando il tempo di recupero sui campi, c'era un importantissimo Livorno-Sassuolo, al momento siamo sul 2-2, Empoli-Mantova 1-1, Ancona 2, Triestina 1, a Salerno-Ascoli 2, Salernitana 1, Treviso 2, Avellino 1, a Modena vince 2-0 il Bari, Piacenza 1, Pisa 0, Rimini-Albino-Leffe 1-1, questi, ripeto, sono ancora parziali. Però mi sembra il momento di fare due chiacchiere sull'urna di ieri, quella che ha disegnato una come titolo oggi il Corriere della Sera, la battaglia d'Inghilterra, titolo il Corriere della Sera nel pezzo di Fabio Monti. Sentiamo cosa hanno detto tra ieri e oggi gli allenatori. Ieri ha parlato Mourinho del sorteggio che ha dato alla sua Inter un graditissimo Manchester United, perché era quello che Mourinho chiedeva. Oggi ne ha parlato, Ranieri ha parlato del Chelsea, Spalletti ha parlato dell'Arsenal. Allora sentiamo che cosa hanno detto a partire proprio dall'allenatore dell'Inter. Penso che sono tre partite del 50-50, tre partite che ogni può vincere. Mi sembra che la Roma può avere un lavoro un po' più facile che il nostro, e che della Juve, perché Arsenal non è Chelsea, Arsenal non è Manchester. Però io ho detto sempre, e non voglio cambiare, che fino alla quarta di finale io sono in assoluto con tutte le squadre italiane. Questo era Mourinho. Adesso sentiamo invece Ranieri cosa ha detto oggi a proposito del sorteggio Chelsea-Juventus. Arrivamo secondi in campionato, arrivamo in semifinale in Champions League, per cui fu un inizio e sapevo che Abramovic voleva portare la squadra sul tetto del mondo. Io sono una persona che fa un lavoro straordinario e lo fa anche per tutte le emozioni che ci sono, per cui quella è una pagina della mia vita vissuta che non potrò dimenticare. Adesso Spalletti, Roma-Arsenal. Potrebbe essere una rivincita per noi, perché loro hanno fatto vedere anche nella Champions trascorsa che sono arrivati in fondo in quattro squadre, per cui ora abbiamo la possibilità di far vedere il nostro calcio non è inferiore a loro, e sono convinto che ci sapremo far valere anche la Juventus e anche l'Inter. Gli ultimi anni con le inglesi non ci ha detto proprio benissimo, anche l'anno scorso, ricordate il Milan con l'Arsenal. Vi dico qual è la mia idea, poi magari oggi, se c'è ancora, abbiamo ancora 7-8 minuti per stare insieme, 800240024 è il numero verde, possiamo parlarne insieme, se no domani abbiamo un sacco di tempo per tornare su questo suggestivo argomento. Per l'Inter è dura davvero, anche se negli ultimi 3 anni, se non ricordo male, chi ha vinto, si può puntare sulla cabala, chi ha vinto la Champions League l'anno dopo è uscito agli ottavi e l'anno scorso l'ha vinta, come sapete, il Manchester United. Quindi magari su questo può contare ancora Mourinho. Per l'Inter è dura, è secondo me il doppio confronto nel quale possiamo capire se, togliendoci un po' di dubbi, se Ibrahimovic è da pallone d'oro, perché se sarà decisivo come deve essere decisivo in questo doppio confronto, allora possiamo ragionevolmente cominciare a parlare di un ulteriore salto di qualità di Ibra. La Juventus, secondo me, col Chelsea si sposa bene per caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche. Per la Roma mi sembra un doppio confronto bellissimo, molto interessante e estremamente aperto. Come sapete, l'Arsenal è una spremuta di talento molto giovane, ha risultati altalenanti perché domani gioca con Liverpool, però batte il Manchester United, batte il Chelsea, poi perde con le squadre di medio-bassa classifica. Insomma, è una squadra difficile da leggere, ma è una squadra meravigliosa. Abbiamo in linea per parlarne Massimo Franchi, inviato di Tutto Sport, espertissimo di calcio internazionale. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Allora, hai dimenticato di dire, per esempio, batte il Milan, sì, mi riferivo all'Arsenal, no? L'ho detto prima. Non l'ho sentito allora. Dicevo che negli ultimi anni non ci ha detto benissimo. Una squadra l'inglese. Che può compiere qualsiasi impresa, sia in positivo che in negativo, ecco, questo sì. Per la Juventus invece sai cosa ti dico? Tutto sommato non posso dire che non le è andata male. Non le è andata male perché il Chelsea mi sembra uno squadrone, certamente, una squadra di grande suggestione, però una squadra che per caratteristiche con la Juventus si incastra bene, se mi permetti. Ma posso anche essere d'accordo, anche se nel mio personale pronostico, pur essendo non posso dire tifoso, ma altamente simpatizzante, sì, bianconero, io penso che i favori del pronostico restino al Chelsea, perché veramente è una corazzata, no? Poi anche le corazzate si affondano, sì. Però è una squadra, il solito discorso, le figurine, tutto, però se guardi i nomi che c'ha, sono nomi da paura, e la Juve non è detto che sempre i suoi difensori, mi riferisco per esempio al De Ceglie visto col Milan, o a centrocampo Marchisio, piuttosto che Molinaro, Grigera, le Grottaglie, beh, Chiellini lo metto già tra i potenziali fuori classe, i campioni, insomma tutti questi difensori qua che ho nominato, Salihamidžić, questi qua che ho nominato, insomma non mi sembra che possano rischiare l'urto di Stamford Bridge, ecco, questo. Sì, però comunque è una Juventus che va con le spalle abbastanza leggere a giocarsi questo doppio confronto. Nessuno può pretendere il passaggio del turno contro esatto, Chelsea. Esatto. Questa è una forza. Poi Del Piero, abbiamo visto davvero, quest'anno gioca come 10 anni fa. Anche meglio se certe volte. Forse sì, fa dei gol degni di quelli che fece quando scalzò Baggio, sì. No? Ecco. No, sicuramente tornerà Trezeguet, torneranno tanti, saranno disponibili, Poulsen, Thiago, che pure hanno deluso, soprattutto Poulsen, Buffon, che vuole dire tantissimo, perché basta un intervento di Buffon a salvare un risultato, ecco, magari che Manninger non salva, Camoranesi, la sua grande esperienza. No, sicuramente sarà una partita straordinaria, diciamo, peccato che non si è potuta disputare in questo periodo, perché a febbraio cambieranno tante cose, come per il Barcellona. In questo momento il Barcellona sicuramente è la squadra più forte del mondo, se la gioca col Manchester United, però come attacco, no, 64 gol tra siamo appena a dicembre, tra Champions e Liga, è una cosa mostruosa, impressionante. A febbraio sarà un altro Barcellona, a febbraio sarà un altro Real Madrid, sarà anche un altro Chelsea, e si teme che possa essere un'altra Juve, diciamo. Voliamo bassi, un pizzico di fatalismo, e poi magari invece ci sarà di nuovo un altro exploit come quello del Bernabeu e del, certo, del Comunale contro il Real Madrid. Senti, ho detto mille volte, non so se condividi, che ovviamente puntare su una Champions League, dire la Champions League è il mio obiettivo, è qualcosa, è un po' fumo negli occhi, perché la Champions League è il bello delle coppe, sta anche nella loro alea, no? Nel fatto che sbagli con l'eliminazione diretta, sbagli un tempo e sei fuori. Però invece per quanto riguarda qualcuno l'Inter... ieri Wenger, mi dicevano i colleghi inglesi che l'hanno sentito, ha parlato nemmeno di un tempo, addirittura ha detto 5 minuti. Sì, sbagli 5 minuti su 180 e sei fuori. Chiedi al Milan, chiedi ad Ancelotti cosa ne pensa. Esatto. Invece in ottica Inter, per l'appunto, insomma, Moratti ha detto prendo Mourinho perché voglio vincere la Champions League, anche questa è una forzatura, però voglio vedere come l'Inter arriverà a giocarsi, in quali condizioni fisiche, tecniche e psicologiche arriverà a giocarsi questo doppio confronto con il Manchester United, perché se ci arriva al massimo delle sue potenzialità, Mourinho ha già fatto quello che doveva. Sì, perché Mourinho davvero, io lo conosco, l'ho conosciuto in tempi non sospetti, quando faceva il traduttore di Van Gaal e Bobby Robson al Barcellona, e davvero questo uomo ha, come dire, un tocco taumaturgico, è davvero uno special one. Basti pensare, magari anche fortunato, ma questo è un pregio. Sì, sì, certo. Lui ha vinto, adesso non ricordo se 13 o 14 trofei, e ha soltanto 45 anni, ivi comprese Champions League, Coppa UEFA con il Porto, due titoli con il Chelsea, la FA Cup battendo in finale il Manchester United a Wembley, Supercoppe inglesi, Supercoppe di Portogallo, Scudetti portoghesi, cioè mi pare 13 o 14, adesso non mi ricordo esattamente se sono 13 o 14, e comunque ed è un risultato impressionante, e lui qualcosa porta sempre a casa. Quest'anno Totti ha sbagliato un rigore che era facilissimo. Io dico, no, non lo so, sono cose strane, no? Però certo, se fosse stato Mourinho il 21 maggio scorso al Luzhniki di Mosca, magari John Terry la palla la buttava dentro. Magari sì. Ma come, era la stessa cosa? Eppure no. Magari sì. Senz'altro la fortuna nel calcio è una gran dote. Io ringrazio Massimo Franchi, Via di Tutto Sport, siamo in chiusura di programma. Per quanto riguarda la Serie B, cambia un solo risultato di quelli che vi ho detto prima, ma il più importante, perché al 50° del secondo tempo Tavano dà la vittoria al Livorno, che batte 3-2 il Sassuolo. È tutto per oggi, grazie a Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunti in regia, domani.